Si è spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'or. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Pur se l'estate è finita, l'amo ancora. È spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un'altra dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Io cercherò. È spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Io cercherò amare.